dottor Pardo, dottor Cinta, grazie di esistere. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Cover famosissima degli Eagles, cantata dagli Eagles of Death Metal, vorrei, sapete benissimo chi sono ormai, vorrei solo far volare via dal tavolo la per me fastidiosissima polvere della demagogia secondo cui ieri tutto il mondo dello sport si sarebbe dovuto fermare a piangere. Io non sono d'accordo, non so voi, 800 24 00 24. Chiaro che sullo stesso tavolo rimangono molti altri temi, magari banali o apparentemente banali, giusto giocare gli europei in Francia, come guardare in controluce in prospettiva i mondiali di Russia dopo le Olimpiadi di Rio, molto lontani i mondiali di Russia, ma estremamente attuale la questione. Sono storie che abbiamo sentito molte volte e di cui possiamo anche provare a parlare serenamente con Beppe Severgnini, che ringrazio tanto. Ciao Beppe. Eccomi qui, buongiorno. Poi mi dirai com'è l'erba del vicino, non credo che sia sempre più verde, ma poi me lo racconti. Giovanni Bruno, direttore di Sky, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao Beppe. Buongiorno. Oltre a Pierluigi Pardo, che è padrone di casa. Ciao Pier. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao. Beppe, comincio da te. Sono temi apparentemente banali, no? Come ho detto, giusto giocare gli europei in Francia. No, mi sembrano banali, mi sembrano serissimi. E qual è il tuo pensiero? Il mio pensiero è che quei delinquenti, fanatici, assassini, eppure vigliacchi, perché se la pigliano con persone che vanno a divertirsi venerdì sera, vogliono che noi ci fermiamo, che ci spaventiamo, che blocchiamo, che ci sospettiamo a vicenda, e noi non dobbiamo neanche pensarci di farlo. Voi dovete fare il programma alla radio, io devo fare il programma in televisione stasera, certo. Dobbiamo giocare le partite e andare al lavoro, alla faccia loro. Certo, come ha fatto lo sport ieri, ed è questo che io ho apprezzato, perché ieri lo sport è andato quello che c'era è andato normalmente a lavorare. E poi si può dare un segno, io ho trovato, ho letto che a Livorno hanno intonato la Marsigliese per primi, tra l'altro, se non sbaglio. Su tutti i campi poi della Serie B. E io ho saputo questo, e mi è sembrato un bel gesto. L'Independent in Inghilterra ha pubblicato il testo della Marsigliese, Alons en Fan, per gli inglesi, chissà come lo pronunciano, per la partita Inghilterra-Francia. Questo va benissimo, però l'idea di fermarsi, no. È vigliacca. Bisogna farlo. Io credo sia vigliacca, è quello che vogliono. Lo so. Vogliono trasformarci in una società spaventata. Noi siamo una società aperta, ci piace così. Assolutamente, ma sai quanta gente dice, no, ma fermiamoci a piangere. Io non sono d'accordo, sono il primo a dire, voglio sgombrare il campo da questa polvere demagogica. Giovanni Bruno, cosa ne pensi? Ma sposo le parole di Beppe, ci mancherebbe altro, cioè, sarebbe una cosa folle. Fatto sta che per fortuna la partita di domani si gioca, Inghilterra-Francia, si gioca in Inghilterra, certamente in un paese dove ne hanno viste di cotte e di crude, e quindi che sopportano perfettamente. A questo punto non dovevano neppure cominciare gli ATP Finals di tennis, invece l'hanno celebrati con una meravigliosa cornice con la bandiera francese all'interno dell'O2 Arena, quindi una cosa spettacolare. Non si doveva fermare l'Olimpiade dopo l'11 settembre, ricordiamoci che l'11 settembre delle Torri Gemelle c'era, come negli Stati Uniti a Salt Lake City, i giochi olimpici dopo pochi mesi. Sì. Quindi insomma, eccolo là, è la fine così, siamo dobbiamo andare a vedere quello che di bello riusciamo a fare, come io ho trovato magnifico, meraviglioso, stupendo, struggente il pianoforte che suonava con Imagine. Ecco, quella forse è l'immagine più bella, la risposta più bella con la musica dopo quello che hanno fatto all'interno di un teatro musicale. Ma sì, ma in fondo serve solo semplicità, forse in queste situazioni, Pardo. Sì, sì, assolutamente. Guarda, Je suis en terrasse è l'hashtag in questo momento, sono in terrazza, no? Sto vivendo, è l'hashtag in questo momento fra i trend topic che c'è in Francia, è proprio esattamente questo. Paradossalmente questo attentato, questi attentati da un lato chiaramente ci mettono paura, dall'altro ribadiscono e ci fanno rendere conto sempre di più della felicità che possiamo provare, della libertà ovviamente provvisoria, con tutti i casini che ci sono anche nell'Occidente, con tutti i governi che funzionano poco, i problemi con l'economia, con tutto quello che volete, però comunque questa è una terra di libertà di movimento, di libertà di espressione, di libertà di culto, di libertà di rapporto con gli altri. Quindi questa cosa, paradossalmente, in un momento come questo ti viene ancora di più la voglia di urlarla e di, ma sì, e di benedirla come un dono che hai ricevuto dalla vita. Quindi sono perfettamente d'accordo. Lo sport ovviamente ha un enorme valore, ovviamente lo sport è come tutte le cose grandi della vita, e molto popolari, può essere strumentalizzato. Abbiamo letto con orrore, questo, ovviamente, sai, il possibile progetto, no, dei terroristi che volevano entrare allo stadio. Quindi sì, sì, sì, ma ci sono, potevano rischi. Entrare anche al concerto degli U2, voglio dire, sì, sì, sì, certo. In un cinema, in un teatro. A questo punto fermiamo la vita e loro hanno vita. Ma il compromesso che dovremo fare, Carlo, ma questo vale per tutti, è esattamente come dopo quell'11 settembre terribile, è che ci sarà qualche precauzione in più, che ci sarà qualche coda in più, che ci sarà qualche rottura di scatole in più. Beh, ma che ci la siamo abituati, dell'Occidente, no? Che è uno dei tratti distintivi e di forza di questo pezzo di mondo, no? La velocità, ci per cui abituati. Non hai più neanche bisogno, basta che ti ricordi il numero della carta di credito, compri qualsiasi cosa, uh-huh. E che tutto è veloce. Questa roba chiaramente avrà dei vincoli in più. Vabbè, ce ne faremo una ragione, non sarà un problema. Un attimo di pazienza e poi altre due battute su questo tema. Giovanni Bruno, che oggi parlo naturalmente, e Beppe Severgnini, Traffico. This really touched me personally. Why are we not old friends? Why we keep doing this? Why we don't find agreement? Why we don't have peace? Why we are not old family? Tutti convocati. Tutti convocati. Abdicare a delle scelte fatte con strategie che non devono cambiare, sarebbe un grave errore cambiare la sede per fare gli europei, dal mio punto di vista. Direi che normalmente non è il massimo della credibilità, ma queste parole le possiamo condividere, sono cose che un po' ci passano sopra, che alla fine abbiamo quasi la sensazione non dipendano da noi. Beppe Severgnini, mi spieghi una cosa che a me dà molto fastidio: perché dobbiamo continuare a considerare lo sport un po' come un reality, quando invece è pura realtà? Devi formulare meglio la domanda, perché non è realtà, certamente è un reality, solo una cosa, perché accompagna la vita della gente, devo dire, in modo molto più intelligente di tanti reality. E questo è il primo commento che mi viene, ma tu intendevi qualcos'altro? Quindi io intendevo ok, lo sport, spostiamo la sede degli europei, continuiamo a considerarlo come un mondo a sé stante, fermiamolo secondo qualcuno, ma perché lo sport? Non solo perché gli attentatori hanno cercato di entrare dentro uno stadio, forse perché in momenti come questo sarebbe vietata ogni forma di divertimento? Guarda, non lo so, io credo che se, ci ho pensato molto anche sulle questioni russe che stanno venendo fuori una dopo l'altra. Io non so, lì è un po' più complicato di quello che abbiamo detto fino adesso e sentito, uh-huh. Non avevo assolutamente dubbi nel rispondere. Dopo quello che sta venuto fuori in Russia, io so, qualche dubbio in più ce l'ho, però le mescolanze fra lo sport e la politica sono sempre complicate, quindi chiedo di pensarci per qualche tempo. Qual è il tuo dubbio principale? Posso chiedertelo? Il mio dubbio principale è che se dovessimo dare una patente a tutti gli organizzatori di eventi sportivi nel mondo. Credo che la potrebbero fare giusto l'Inghilterra e pochi altri, noi magari qualcuno dell'Unione Europea e pochi altri, e questo secondo me è un problema non da poco. Un'ultima cosa, restano le immagini, restano le immagini. Pensa a Qatar, ma pensa a Qatar e a tutto quello che c'è intorno, e a tutto quello che c'è intorno. No, ma tanti altri, e anche gli ultimi anni. Ma c'è secondo te un'assegnazione di un mondiale o di un'Olimpiade pulita negli ultimi 30 anni? Non sono uno studioso come voi della faccenda, no. Io devo dire che tra l'altro ero in una, secondo me, il mondiale più bello da vivere con i nostri ospiti oggi, con i tuoi ospiti oggi. PLP, come lo chiamo io, Pierluigi Pardo e Giovanni Bruno, eravamo nel 2006 in Germania con Sky, loro sono i professionisti, io davo una mano, e mi sembrava il mondiale in cui davvero lì non c'è, e invece adesso stiamo scoprendo delle cose, giusto? Sì, mi sembra di sì, lo chiedo anche a loro, Giovanni. Purtroppo sì, è verissimo, era il mondiale perfetto, poi lo viene a sapere adesso che non era perfetto dal punto di vista di organizzazione, ti calcano le braccia, è come se tu a un certo punto dici: per me l'Olimpiade perfetta è stata l'ultima, Londra, quella del 2012, no, attenzione, non so, c'è 2012, e poi magari andiamo a scoprire che Sebastian Coe si era venduto l'anima al diavolo pur di organizzarla, e visto che i problemi che in questo momento sta avendo anche non tanto come presidente attuale della IAF, ma quanto come vicepresidente in precedenza sempre della IAF per i giochetti che ha fatto il suo capo, qualcosa doveva sapere, no? Gli è stato detto, ma gli è stato detto dagli inglesi, penso un po', e quindi di conseguenza concordo con Beppe che c'è, e con voi, quanto dovrebbero essere tutto perfetto. La stessa Salt Lake City si è venuta a sapere come. Sì, ma io torno alla domanda, però scusami Giovanni, torno alla domanda mal formulata a Beppe Severgnini: perché dovrebbe essere perfetto quando ovunque ci giriamo non troviamo niente, ecco, di questo tipo, dai, siamo realisti. No, è come il concetto di squalificare Armstrong, ritorniamo sulla cosa, squalifichi Armstrong, poi dici non trovi il secondo, il terzo, il quarto a cui assegnare il Tour de France, era l'epoca dichiarato da Armstrong, su 200 che partivano 195 erano dopati, quindi dobbiamo renderci conto anche di quello. Di certo il futuro in funzione di quello che sta uscendo prima dell'organizzazione, per quanto riguarda tutto ciò che sta avvenendo in Russia, dal doping alla corruzione, bisogna fare una bella riflessione da questo punto di vista, e intanto gli hanno bloccato l'organizzazione della marcia dei mondiali e dei mondiali juniores, dei campionati del mondo juniores proprio a Kazan, quindi diciamo attenzione, e questo è un bel segnale, ecco. E comunque quasi sempre lo sport, con la sua bellezza, con la sua epica, riesce a riscattare quello che c'è sotto, cioè il Mondiale 2006, adesso scopriamo queste cose, giusto giornalisticamente andare a indagare, certamente, però questo non ha tolto nulla a chi ha fruito di quell'evento, a chi si è emozionato, ai giocatori di campo, insomma, poi probabilmente poteva essere organizzato in un altro paese, anche se quel Mondiale lì, anch'io ho dei grandi ricordi, anche dal punto di vista proprio organizzativo, poi ci sta particolarmente simpatico quel Mondiale perché andava a finire in un certo modo, ma insomma, dal punto di vista tecnico quel Mondiale lì era stato organizzato in maniera impeccabile anche dal punto di vista televisivo, insomma, i tedeschi erano stati proprio tedeschi con la T maiuscola, anche se io ho dei grandi ricordi con Severgnini di cene di baccalà a Porto nel 2004, la bandierina del calcio d'angolo dell'Europa, quindi. Vero, ecco Beppe, perché c'erano i conti che dovevo passare. Guarda, esatto. Firmato da Giovanni Bruno. Bruno pagava, ma giusto, ma è giusto, nel tuo ruolo, direttore. Dimmi, Beppe. No, dicevo che uno che fa il mio mestiere, lascia perdere che adesso sono in televisione per qualche tempo, però insomma io sono un giornalista, uno scrittore, scrivi tante cose e si dimenticano tutti. Pardo si ricorda di una mia metafora in cui dicevo che era come parlare di calcio sulla bandierina del corner dell'Europa, giocare in Portogallo, e a lui era piaciuta sta roba e se la ricordo dopo 11 anni, sono lusingato. No, io volevo chiedere a Severgnini una cosa invece, perché vabbè, gli italiani, il tuo programma di stasera, a proposito del Bocca al Lupo, seconda puntata, la prima andrà molto bene. Aspetta, posso chiedere di che parli? Posso chiedere a Beppe per inciso di che parlerà, poi finisci la domanda, Beppe? Ah, velocemente, allora l'erba dei vicini, grazie di avermi chiesto, seconda puntata stasera Rai 3 ore 21:05, avete visto, sembra un vero conduttore. Bravo. E allora è una sfida ogni volta, settimana scorsa era Italia-Germania, oggi stasera sarà Italia-Inghilterra, settimana prossima Italia-Francia. La puntata di di stasera, visto che gli inglesi, il loro grande cruccio di questi tempi è parlare dell'Europa, parliamo della Francia per parlare dell'Europa, per parlare dell'assoluta necessità di tenere gli inglesi in Europa perché sono importanti. Però sia chiaro, non è un talk show politico. Noi abbiamo 4 temi divertenti, 8 ospiti, 8 filmati e la gente vota. Chi è più bravo? E le domande sono: è meglio una scuola pubblica inglese o una scuola privata inglese o una scuola privata pubblica italiana? È meglio chi è che gestisce meno peggio il gioco d'azzardo, che è una follia nei due paesi, l'Italia o la Gran Bretagna, eccetera eccetera. Quindi noi spero che sia un gioco intelligente. La prima volta mi ha sorpreso, è andata veramente bene la prima puntata. Adesso faccio finire la domanda a PLP. La domanda è se questa tragedia, che è veramente una tragedia europea, io mi sento molto europeo, ho fatto 4 Interrail, un Erasmus, proprio questa cosa ce l'ho, proprio mi sento orgogliosamente europeo, quasi come mi sento italiano, quindi questa cosa ce l'ho proprio di mio. Se nella drammaticità di questa tragedia, insomma, può nascere un sentimento che può essere veramente un sentimento di vicinanza tra le persone, perché poi negli anni mi sembra che l'Europa abbia lasciato il posto alla polemica politica, o se vuoi anche alla burocrazia economica, quindi è diventata più una questione di fiscal compact, PIL, rapporti, questa Europa matrigna che non capisce la differenza tra il nostro olio extravergine d'oliva che vale più del petrolio e magari certe cose che ci assomigliano, che vorrebbero assomigliarci. Ecco, se questa tragedia nella sua tristezza, nella sua drammaticità può contribuire invece a ricreare un po' di quel sentimento che chiunque abbia fatto un Erasmus in Europa o un Interrail sente addosso, perché veramente ti senti parte dello stesso pezzo di mondo. La risposta è: dovrebbe accadere. In gennaio, quando c'è stato l'attacco a Charlie Hebdo, hanno fatto la manifestazione, tutti i capi di governo a braccetto, te lo ricordiamo tutti, purtroppo non è accaduto. Hai centrato il punto. Io, tra l'altro, non è che mi stai simpatico per questo, però la pensiamo esattamente allo stesso modo. Io credo che l'Europa sia un capolavoro, che con tutti i difetti che ha sia al posto. L'ho detto in TV qualche giorno fa, Sabina Guzzanti, che ha detto: questo è un mondo di, scusate l'espressione, di merda. Gli ho detto: sarà una società di merda, ma è quella in cui vuole correre tutto il sud del mondo e tutto l'est del mondo, vuole venire a vivere questa roba con tutte le imperfezioni. Allora, o noi troviamo un po' d'orgoglio anche di rispondere: signori, tu puoi credere a qualunque Dio, non è un problema, ma non puoi usare il tuo Dio per fare gli affari tuoi, per picchiare una donna, per mettere una bomba, per sparare a qualcuno, per impedire a tua figlia di uscire. Se vuoi fare così, prego, quella è la porta. In Europa le regole sono altre. O noi abbiamo il coraggio di fare questa cosa, e penso lo sappiate, io dovrei essere un moderato e un liberale, quindi non è nulla, ma noi dobbiamo avere il coraggio. Quello che è mancato proprio è una narrativa dell'Europa. Io non sai quante volte l'ho ripetuto in Italia, fuori, con Barroso, a Berlino, guarda, in tutta Europa negli ultimi 2 anni. Ma dov'è l'orgoglio? Io sono orgoglioso di essere europeo. Se questo qua è successo, non convince tutti noi a essere veramente orgogliosi di quello che abbiamo, delle idee che abbiamo, del compromesso intelligente fra religione e ragione che è uscito dall'illuminismo? Allora siamo fottuti, per usare un termine tecnico. Sì, grazie Beppe. Buon lavoro. Io posso solo dire che le parole di Beppe sì, sono meravigliose, ma nello stesso tempo concordo, e nello stesso tempo ha concordato il primo ministro australiano, che ha dichiarato le stesse identiche cose. Molto molto importante. Certamente il primo ministro australiano non è europeo. Certamente. Io ringrazio Severini, però volevo chiedere ancora una cosa. Grazie Beppe, buon lavoro. Volevo chiedere ancora una cosa a Giovanni Bruno. Sì. Approfitto della tua memoria storica, della tua esperienza, Giovanni. Da Monaco 72, chiaro, è stato citato un miliardo di volte, era un altro scenario, erano altri tempi, era un'altra storia. Però da Monaco 72 ogni edizione dei giochi olimpici, e rimango sui giochi olimpici, è stata minacciata, boicottata, violentata, messa sotto controllo, passata al metal detector, ogni edizione da lì in poi. Mi sbaglio? No, verissimo, ma anche allora, prima, dopo, perché se, allora, tu pensi, se Sochi, tu pensi... Dopo, è dal dopo 68, Sochi, è dal 68 che è cominciato, dalla strage della Piazza delle Tre Culture a Città del Messico, un mese prima, quindi dell'inizio dei giochi. Quindi questa era la prima situazione. dopo Sochi bisogna stare ma si è sempre stati attenti sul chi va là. Tu ricordati per esempio l'Olimpiade del 2012 di Londra, che cosa si è detto? Perché ci sono i militari dell'Afghanistan, che di rientro dell'Afghanistan, cioè, poi non è successo nulla, meno male. E l'altro episodio che io ricordo è quello di Atlanta 96 con la bomba, diciamo, vicino al villaggio, tutto qui, ma dico tutto qui con ribrezzo. La realtà è che la soglia di attenzione per un evento di quel genere come l'Olimpiade è sempre altissima, c'è sempre stata e non c'è nulla da fare da questo punto di vista, cioè, anche senza i fatti di oggi. Quindi, essendo cose che ci passano sopra, no? Io credo che se verrà dato l'ok, come non ho dubbi che sia, all'europeo francese, sì, è vero, sicuro, ci saranno le massime situazioni e condizioni di sicurezza, perché sono cose che io credo volino al di sopra di noi, volino attraverso intelligence, servizi segreti, eccetera. Non è una cosa, fammi dire in un termine banale, ufficiale. Hai perfettamente ragione, secondo me gli europei si faranno, passeranno, a parte che ci sono ancora mesi, ma nella realtà ci sarà massima allerta, massima attenzione, e in questi casi, dico una cosa incrociando tutto, non è mai successo nulla, la vigliaccheria dell'elemento d'attacco è proprio quella, di farti a prendere. Tu vai a mangiare una cosa al ristorante, poi la guardia abbassata, capito, questa è la bastardata. Quando è la guardia abbassata? Grazie Giovanni, grazie Giovanni Bruno, grazie a voi, grazie a voi. E Luigi stai lì, Michele Tancredi, Giovanni Bruno, no, Giovanni Bruno l'abbiamo ascoltato, Michele Tancredi invece sono ascoltatori che dovremo ascoltare dopo la borsa. Bene, molto bene, il Trap apprezza, lo sentite? Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Anima, miglior gestore fondi Italia Big 2015 secondo l'Istituto Tedesco Qualità e Finanza. Vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Radio 24 e il Sole 24 Ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Convocati. Con Pierluigi Pardo passiamo agli ascoltatori. 800240024, numero verde. È chiaro che anche oggi è difficile separare discorsi razionali, un po' lucidi dalle emozioni. C'è chi scrive: sono sempre andato allo stadio, ma con la tragedia di Francia non ci andrò mai più in uno stadio. Ovviamente non so se leggerete questo messaggio, perché non dobbiamo leggerlo, piuttosto cambi idea, perché gentile ascoltatore, perché non credo sia questo il caso. Oppure: per gli ineffabili tutti convocati, almeno per oggi basta fare gli idioti, solo rabbia, orgoglio e rispetto per i morti. Francesco da Como, non abbiamo rabbia, orgoglio e rispetto per i morti, questo non lo so, e domando ragione. Se volete anche con WhatsApp, che mi diverte, 349-238-6666, sono messaggi molto interessanti. Michele, buongiorno. Buongiorno, dica. Buongiorno a tutti. Ascolti, partirei da questo presupposto. Quando un gruppo terroristico pianifica un attentato e poi quando questo attentato riesce, per questo gruppo è ovviamente una vittoria ed è una sconfitta per chi subisce l'attentato. Modificare le abitudini, interrompere le partite, spostare gli europei, eccetera, non è altro che rafforzare la vittoria di questi gruppi. Sì, sì. E quindi è da sconsiderati, diciamo, cedere a questi ricatti terroristici, perché il loro fine ovviamente è anche questo. Michele, questo. Credo che sul punto siamo tutti d'accordo, ne abbiamo parlato ieri, continuiamo a parlarne oggi, ma noto che ci siano poche voci discordanti su questo, Pierluigi. Assolutamente, ma poi fortunatamente, ripeto, con tutti i suoi difetti, il mondo nel quale viviamo si riempie di passioni, quindi non sarà così difficile. È chiaro che adesso a Parigi soprattutto ci sono tutta una serie di situazioni di falso allarme, c'è un clima molto particolare, ma poi la gente gradualmente ritornerà ad affondare i ristoranti, tornerà ad andare nei bar, non è che non uscirà più, non andrà allo stadio, insomma, c'è Juve Milan, la gente non va allo stadio a vedere i 2000, la gente si andrà allo stadio e farà quello che bisogna fare, quello che ci va di fare, che è vivere. Sì, sì. Poi è chiaro che qui la questione spetta non a me, nemmeno a te, nemmeno a Stella. No, ma Bruno, assolutamente. È la questione delle mani dei politici, è la cosa molto difficile, molto complicata, almeno per me da profano, di questa situazione qui, è capire chi possa essere l'interlocutore, se ne esiste uno, se ce n'è uno possibile per riuscire a scongiurare fenomeni di questo tipo. Ma io non credo io non ci siano dialoghi ufficiali in questo, possibili in questo momento, in questo frangente. Non so neanche dirti se bombardare Raqqa, cosa che è successo stanotte, sia una strada buona per evitare ulteriori guai, oppure cioè non so dirti se questo tipo di guerra si combatta con la guerra o si combatta con la pace, veramente non lo so. Non lo so, e probabilmente non lo fanno più. Si combatte come tutte le guerre non dichiarate, in questo caso per vie diverse, per vie sotterranee, informali, diplomatiche, appunto a livello di intelligence e di servizi segreti. Tancredi da Udine, c'è anche Mirko Graziano, collega amico della Gazzetta dello Sport. Ciao Mirko. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno a te, Tancredi, dica. Buongiorno, senta, allora premetto che faccio questo mio intervento in una trasmissione sportiva perché sopra la bandiera dello sport spesso, dico spesso, non sempre, ma bravissimo. Spesso. Anche perché su Radio 24 poi abbiamo un miliardo di contenitori molto più appropriati di questo. Bravo, per parlare di discorsi, di discorsi più ampi, profondi. Ma preferisco questo perché... Stiamo coniugando un aspetto della nostra vita, di questo momento, con lo sport, non dimentichiamolo. Perfetto, spesso sotto la bandiera dello sport sono uniti le bandiere di tutto il mondo. Io però voglio fare anche una domanda provocatoria, nel senso che quando la Francia bombardava la Libia, si è parlato di sospendere, che io non ritengo giusto sospendere lo sport, perché lo sport deve andare avanti, perché è la storia che sta andando avanti. Qualcuno si è chiesto di sospendere qualche campionato quando la Francia, ripeto, bombardava la Libia, e non certo per ragioni di religione, ma per ragioni ben diverse che sono economiche. Grazie. Grazie a lei. No. E ripeto, non è questo il contesto più adatto, perché io e il dottor Genta siamo due persone mediamente evolute che leggono i giornali, ma non siamo esperti di politica internazionale e di economia. Sicuramente nella storia del mondo, questo pezzo di mondo che noi rappresentiamo, nel quale viviamo, che è l'Occidente, che come diceva giustamente Severnini, l'Europa rimane un punto d'arrivo per molti, con tutte le sue imperfezioni, ma rimane un luogo magico nel quale vivere, nel quale esercitare una sia pure provvisoria idea di libertà. Beh, questo pezzo di mondo sicuramente riporcavene a parte, questo non ci sono dubbi. Sì, sì. Non ci sono dubbi che anche l'Occidente abbia le sue colpe. Non bisogna averne paura né vergogna di sottolinearlo e di ricordarla. Detto questo, chiaramente in queste ore qui sono stati colpiti veramente degli innocenti, come quando vengono bombardati dei civili in altre parti del mondo. Vengono colpiti degli innocenti e vengono colpiti nell'esercizio della cosa più normale che esista, che è vivere, semplicemente vivere, senza voler fare del male a nessuno. Quindi è ovvio che siamo tutti sotto shock, che questo tipo di mondo si debba fermare, certo, e debba capire cosa fare adesso. Per questo, ripeto, è molto complicato secondo me, soprattutto per noi che non ci occupiamo di queste questioni, ma probabilmente anche per i politici, capire quale sia la strategia giusta in questo momento. Certo, che non sia quella emotiva. Mirko, che ambiente ti aspetti invece domani sera intorno a Italia-Romania? Ma guarda, nulla di entusiasmante dal punto di vista sportivo, invece un qualche cosa di importante nella crescita di questa nazionale, che secondo me è risultato, a parte in Belgio, ha dato segnali molto importanti dal punto di vista tattico e tecnico. Credo che il lavoro di Conte inizi a farsi sentire, e credo che questa nazionale darà fastidio a tutti al prossimo europeo. Stai con noi, ci fermiamo un attimo per il traffico, poi torniamo a parlarne. Parleremo anche di Ferrero, che non è stato ricevuto a Palazzo Viola, a Palazzo della Fiorentina, ma comunque si è preso Montella, che oggi è stato ufficialmente presentato. Tutti convocati. Tutti convocati. Mentre c'è una notizia sportiva degli ultimi minuti, cioè che, come già previsto, Balotelli sarà operato e starà lontano dal calcio per 3 mesi, non pochissimo tempo. Mirko Graziano ci stava dicendo che in Belgio ha visto segnali importanti della crescita della nazionale di Conte, però intanto c'è già chi vuole rubargli il posto, come Del Piero. A me piace molto la vita che sto facendo ora, CT come ho sempre detto è una cosa che fino a qualche anno fa non ho mai pensato di fare, oggi sicuramente ho capito che è una cosa molto interessante, affascinante, difficile eccetera, però non ho ancora intrapreso nessun passo per poterlo fare, quindi rimane un'idea. Rimane un'idea, Mirko, no? Mai dire mai, perché why not? Dice bene Del Piero, dovrà fare parecchi passi prima di arrivare in una posizione tale per potersi proporre come CT, insomma, non è che dall'oggi al domani si può inventare commissario tecnico di una nazionale importante come quella italiana, anche se ti chiami Alessandro Del Piero e hai scritto pagine importanti del calcio. Però di Catanova. Sai bene come questa idea già era rimbalzata, quasi fosse un talismano capace di levarci qualche paura. Pierluigi, tu hai visto come Mirko dei segnali di crescita in Belgio? Qualcosa ho visto tipo? Anche tipo l'inizio è stato un inizio molto incoraggiante, che a breve dopo 1-0 anche con la palla gol per andare sul 2-0, insomma l'Italia ha sorpreso il Belgio, e poi è chiaro che la partita è fatta di 90 minuti, gli errori difensivi sono stati pesantissimi, però ti dovessi dire la verità, considerata la differenza almeno teorica di valore economico dei giocatori, secondo me non è andata poi così male. Da questo punto di vista credo debba essere interpretato il pensiero di Conte, nel senso che è stata una partita dove siamo stati traditi dal reparto difensivo soprattutto, no? E ovviamente questo può accendere anche tutta una serie di campagne di allarme, però insomma complessivamente abbiamo dimostrato di poter essere una squadra che è una partita spiccata contro una delle migliori nazionali del mondo in questo momento, ranking a parte, ma voglio dirti il ranking ulteriore conferma, se la può giocare, quindi la sensazione è che poi magari quando ci sarà un pochino più di adrenalina, il pallone scotterà di più, noi saremo un po' più motivati perché sappiamo che abbiamo delle difficoltà, delle amichevoli, magari col Belgio te la giochi, non è male giocartela con Belgio. Ah no, assolutamente. Con tutti. Sul Del Piero posso dire, posso fare una provocazione, io lo vedo meglio eventualmente da presidente federale. Anch'io. Che per le caratteristiche che ha, ovviamente, di prestigio, di eleganza, di simbolo e anche di capacità, anche lì penso che ci sia, quasi come l'allenatore, anche lì penso che ci debba essere una capacità manageriale che non ci si possa inventare. Sì. Però insomma, ecco, delle due sembra in questo momento il ruolo più semplice. Sono d'accordo con te, anch'io lo vedrei meglio da presidente federale, anche perché non credo più al CT della nazionale come talismano, come portafortuna o come semplicemente come uomo immagine. Non è più il tempo per queste cose. L'ultima cosa, Mirko Graziano, secondo te esiste un problema difesa della nazione italiana? Ma no, penso che sia un problema di condizione fisica più che altro. In questo momento alcuni giocatori sono abbastanza tirati e quindi arrivano magari a commettere degli errori che in condizioni normali non commetterebbero. Diceva bene Pierluigi, questa è una squadra che ha dato ottimi segnali, ha dimostrato di potersela giocare col Belgio, immaginiamocela dopo un mese di lavoro con Conte. Quindi dopo il ritiro, sotto un certo tipo di pressione e dopo essersi liberata delle scorie del campionato. Io credo che l'Italia abbia una buona struttura, soprattutto grazie a questo commissario tecnico che è forse oggi l'allenatore più importante in Italia, sicuramente tra i più importanti all'estero. E nel panorama internazionale, a livello di CT, di allenatori, ce ne sono molto pochi ed è proprio lì che noi potremmo fare la differenza. L'Italia è già oggi una squadra molto ben organizzata. Grazie Mirko, a presto. Grazie a voi. Un abbraccio. Ciao. Grazie Mirko Graziano. Pierluigi, prima di salutarti ti faccio sentire una cosa. Sono emozionato a stare qui a presentare lo zio Vincenzo. Decolla supino dalla triangola India, un aeroplanino di grandi dimensioni. Ma quello che rappresenta per me la Samba, insomma, è abbastanza palese, qualcosa che ho voluto fortemente, ho voluto dal primo giorno in cui ho iniziato questa avventura con i giovanissimi nazionali, il mio sogno è sempre stato quello di allenare la Samp, forse anche solo per un giorno. Ma dalla scaletta lo non scende un bifolco. Dopo varie proposte ha scelto il cuore, la passione e l'amore per questi colori. Almeno io così l'ho interpretata, perché ha rifiutato di andare nei grandi club mondiali. Voglio crescere come allenatore, penso di poter crescere ancora molto e penso e credo di poterlo fare attraverso la Sampdoria. Tradotto, non mi sento un allenatore superiore all'ambizione della Sampdoria, come qualcuno ha pensato o qualcuno ha scritto. Vedremo quali saranno le ambizioni della Sampdoria. Intanto non so quali grandi club volessero Montella per Luigi, so per certo invece che i Della Valle non hanno voluto saperne di parlare con Ferrero, quasi non lo riconoscessero come interlocutore. Però Ferrero alla fine si è portato a casa il risultato, che è la cosa più importante. C'era un po' di emozione, secondo me si intrecciano varie storie sentimentali, quella di Montella con la Samp, il valore tecnico dell'allenatore e anche la simpatia giallorossa di Ferrero nei confronti appunto della Roma e di Montella. Secondo me c'è anche questo ulteriore elemento che lo rende particolarmente felice oggi. È un grande colpo per la Sampdoria, è un colpo anche per Montella che si toglie questo guinzaglio dorato che aveva fino a pochi giorni fa di questa clausola, e poi va in un ambiente dove può sicuramente fare tutto bene. Io penso sia una buona notizia complessivamente. L'ho detto qualche giorno fa, Montella è un bravo allenatore ed è un piacere ritrovarlo. Quindi mi sembra un'ottima cosa. Quanto a Ferrero, ovviamente possiamo scherzare, ridere, sentire grozza e anche ascoltare tutte le voci, i rumor, no, che fanno di altre proprietà, di altri fantomatici veri imprenditori pronti a rilevare la società, però se guardiamo i fatti, perché i fatti dobbiamo votare, questo è un colpo, Certo. È un colpo di mercato. Al momento lui è l'allenatore della Sampdoria e si è preso uno dei più quotati allenatori italiani. Pierluigi, grazie, sentiamo domani, abbraccio, ciao. Ci fermiamo per il GR, torniamo subito dopo. Moto Mondiale, Formula 1, Sport 800240024, numero verde. Ci sta una settimana d'amore, di sport, di passione e di voglia di prendere un treno per Genova verso Sampdoria. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Convocati. È veramente un piacere una settimana dopo provare la voce del mio amico Guido Meda da Sky. Ciao Guido. Ciao, buongiorno. Ciao. Anche se stavo pensando una cosa, in giorni come quello di oggi, molto difficili per tutti, no? Anche per parlare di sport, diventa un po' caricaturale, se mi permetti, parlare di battaglie motociclistiche in nome di una comune bandiera nazionale. No, hai ragione, è caricaturale, è un po' grottesco, però sì. Vabbè, insomma, però ci aiuta a dare a queste vicende sportive la dimensione che meritano senza esagerare. Infatti, riflettevo, guardavo Facebook, ho fatto un passaggio e pensavo, pensa come ci siamo trasferiti dalla battaglia e il biscotto tra Marquez, Rossi e Lorenzo a dimenticarcene e a dire ognuno di noi la propria sui fatti della Francia, certo. A una settimana di distanza, da un giorno con l'altro è cambiata la mia pagina Facebook, è cambiata da un giorno con l'altro. No, comunque Guido, sgombriamo il campo dalle bandiere nazionali. Ormai è acclarato il fatto che la bandiera spagnola non c'entra niente, come tu hai detto e come io ho ripetuto più volte in questa situazione. No. Non c'entra niente. In che senso non c'entra niente? No, la comune bandiera, Marquez, Lorenzo, questo comune patto iberico. Ah, no. È tutta una gigantesca bugia. L'abbiamo già detto altre volte, tu stesso lo dicevi, abbiamo a che fare con degli individualisti che tali restano a prescindere dalle bandiere. Poi che Lorenzo, Jorge Lorenzo, in qualche modo si possa essere illuso che ci sia stato un appoggio in nome della nazionalità spagnola, secondo me è un'illusione che resta sua. Sì. Ma poi come ho già detto, Marquez è stato un genio perché ha fatto perdere il titolo a Valentino, che era quello che voleva, e ha screditato quello di Lorenzo. Geniale, in questo. Sono d'accordo con te, questo è il giudizio migliore che si può dare. Ti può piacere o non piacere Marquez, io resto convinto, ne parlavo stamattina con un'autorità di Casa Honda, di cui non faccio il nome perché ci dobbiamo ancora incontrare, che diceva: caspita, però che Bailam che si è montato qua in Italia su questa questione. Cioè, guarda, un po' è normale, no? Essendo di mezzo Valentino Rossi, che è così popolare, e fa, si trasforma in una tigre sulla quale tutti salgono, no? Tutti, anche chi di norma non si occupa di moto, ma si occupa di calcio, è inevitabile. Ciò detto, il forte sospetto che comunque Marquez abbia agito palesemente contro Valentino resta, e devi lasciarcelo in qualche maniera. Ma sai cosa? Secondo me noi ci siamo sentiti un po' traditi, perché tutti eravamo pronti a tifare Marquez per caratteristiche tecniche e altre ragioni nel momento in cui Valentino Rossi avesse deciso di scendere dalla moto. Almeno il mio sentimento è stato quello. Il mio sentimento è stato quello, ti giuro. Eravamo stati ingenui perché non avevamo considerato che in realtà, per essere un grande campione, e Marquez è un grande campione, devi avere in te anche una dose di cinismo, cattiveria, ferocia, tutte cose che lui dissimulava con dei meravigliosi sorrisini, ma che in realtà aveva in sé, esattamente come deve avere un grande campione in sé. La differenza è che lui ha spostato il confine, che probabilmente è generazionale, il confine del fair play in un ambito nel quale non eravamo mai arrivati. Diciamo, dovremmo adeguarci oppure no? Questo secondo me lo scopriremo solo vivendo, dici? No, una bella domanda. Ha spostato molti confini Marquez, anche tecnici, ha spostato pure questo. Domanda epocale, il futuro come lo vedi? Tra l'altro oggi si incontrano all'ECMA tutti e tre qui a Milano, cioè si incontrano, si incontrano e non si incontrano, saranno nello stesso luogo tutti e tre, insomma. Sì, negli stessi 150.000 metri quadri. Esatto. Non credo che siano pronti né maturi per incontrarsi, ma non succederà più probabilmente che si incontrino. Semplicemente diciamo che ci riappropriamo un po' tutti dell'identità più fedele alla storia del motociclismo, cioè uno sport, come dicevamo prima, molto individuale, per cui il fatto che siano neutralizzati i rapporti fra i tre principali contendenti non è una sorpresa, non è una sorpresa. Posso farti un'ultima considerazione televisiva un po' cinica? Che è questa, come ben sai, insomma, l'ultima corsa l'hanno vista 10 milioni di italiani, forse di più, eccetera. Tutto questo, in maniera magari leggermente perversa, non farà altro che accrescere, secondo me, l'anno prossimo, tra 120 e X giorni, l'interesse intorno al moto mondiale. Secondo me, come è successo col ciclismo, come è successo con altri sport. Ma non lo so, no? Dipende da come, me, ma no, è un'opinione rispettabilissima, io non mi intendo di queste cose. Le dinamiche dell'audience sono veramente l'alchimia più misteriosa che io abbia mai trattato nella mia vita. Molte volte abbiamo fatto previsioni che poi non si sono verificate, oppure il contrario, immaginavi dei disastri e sono stati dei trionfi, immaginavi dei trionfi e sono stati dei disastri. Onestamente non lo so, mi viene più facile pensare che dipenderà dal funzionamento di Valentino Rossi, cioè c'è stata sta sfuriata, il biscotto, mica il biscotto, e va bene, archiviato il biscotto, poi adesso vediamo cosa succede in pista. E se Rossi funziona ci saranno molti telespettatori, e se funzionerà meno ci saranno meno. Allora, a me viene da pensare questo, che Marquez l'anno prossimo scenderà in pista con una moto che funzionerà dall'inizio, cosa che quest'anno non è successa, ed è stata una circostanza che Rossi ha potuto sfruttare. Se avrà una moto che funziona dall'inizio, non avrà bisogno di giocare per qualcuno o per qualcun altro, ma potrà giocare liberamente per se stesso. Questo cambierà molto le dinamiche che abbiamo appena vissuto. Chiaro. Anzi, totalmente. Cioè, se Lorenzo si illude di aver trovato un amico, ma non credo che sia stupido. Anche per l'anno prossimo, si sbaglia di grosso, no? Questo credo che Lorenzo lo sappia. Per cui credo che torneremo a vedere, e spero, bel motociclismo con uno che torna a fare quello che... Questo sì, l'unico domandone è per Valentino Rossi, è stato l'ultimo treno questo, la stragrande maggioranza dei commentatori dicono di sì. Però guarda che la stragrande maggioranza dei commentatori hanno già detto che l'ultimo treno era quello del 2006, tre o quattro volte per questo. Quello del 2006, ad esempio. La fotografia realistica è quella di un Rossi che avrà 37 anni invece di 36, ed è vero. Bisogna vedere come si prepara nell'inverno, cosa farà la Honda. non me la sento io di allinearmi ai commentatori che dicono che è l'ultimo treno. Certo, è vero che quest'anno ci sono state una serie di contingenze che in qualche modo gli hanno consentito di gestire la prima posizione del mondiale dalla prima all'ultima gara, vero. Compreso anche un pizzico di fortuna, vero. Compreso il fatto che Lorenzo a inizio stagione ha avuto dei problemi, vero. Compreso il fatto che Marquez aveva la moto che non funzionava, vero. Ma può riaccadere. Grazie Guido, ti abbraccio. Grazie forte a voi. Grazie. Ciao cari, ciao. Ascoltatori 800240024, Luigi da Pisa, Massimiliano da Bologna. Buongiorno Luigi. Buongiorno a voi, grazie della convocazione. Se mi consenti tre cose. Sì, Cristo. Come no. Uno, tutto. Se vi ricordate bene, il nostro marciatore, quello squalificato, Schwarzer. Sì, insomma si chiama Schwarzer. Sì, e praticamente lui in un'intervista subito dopo quando fu preso disse che era cascato nel doping perché non aveva altre armi contro, come combattere contro lo strapotere dei russi che si dopavano, sì. Quindi l'aveva già dichiarata questa cosa, quindi quantomeno andrebbe un attimino rivalutata la situazione di questo ragazzo, insomma, probabilmente disperato che non vedeva altro metodo come battere i russi dopati. Due, lo sport come tutte le cose della vita non si possono fermare davanti a nessuna tragedia e non si possono fermare davanti alla stupidità di queste persone che dietro la forza di una religione fanno cose del genere, perché io credo che non esiste una religione che non esiste una ragione possibile, praticabile, che sia la religione, la politica o quello che vuole lei, semplicemente è ferocia, punto. Mi consenta l'ultima cosa, che praticamente visto che purtroppo la regola di Radio 24 che poi per un mese non posso chiamare nemmeno le altre trasmissioni, vorrei dire all'amico Cruciani che ogni tanto è anche lì, che non è sventolando il fatto che si possa uccidere chi entra in casa con la pistola sia lodabile per chi difende casa sua. Non siamo in America, per fortuna, per questo lo posso dire. E non credo, non voglio pensare che lui ultimamente sia entrato nel mirino degli sponsor della lobby delle armi. Avrei preferito dirglielo a Zanzara, però è vabbè, glielo dico io, sì, però se, riporto io pensiero, farò da postino se vuole, tanto è qua fuori dal vetro, poi glielo dico, lo prometto. Quanto al primo punto, il più sportivo di quelli di cui sopra, non so quanto possa valere la difesa di Schwarzer. Questo è un discorso che abbiamo provato a praticare anche negli anni selvaggi del doping nel ciclismo, no? Negli anni 90, e ci ricordiamo bene quelle storie, quelle battaglie. Allora, qual è la scelta? Mi prendo le mie cose per essere competitivo, oppure denuncio, oppure faccio qualcosa di diverso? Questo però non vuol dire essere in qualche modo giustificato o giustificabile, secondo me. È chiaro che ci sono quelli che dicono: se devo stare a questo gioco, devo fare così. Allora a quel punto, ci sarà mai uno con palle sufficienti per fare una denuncia? È chiaro, sto vaneggiando, non lo conosceremo mai, non lo vedremo mai. Però aspettiamo con fiducia. Massimiliano da Bologna, buongiorno. Buongiorno, grazie della convocazione. Io come tutti, tutti come me. Questa potrebbe essere una frase per una ipotetica denuncia che non ascolteremo mai da uno pizzicato. Dica. Io volevo parlare di MotoGP. Sì. Io ho scaricato il podcast del Falco e del Gabbiano della trasmissione su Simoncelli, sul povero Simoncelli. Sì. E l'ho sentita subito dopo il fattaccio del calcio presunto di Valentino a Marquez. E lì Guido Meda diceva che il mondo, il paddock era cambiato, non c'erano più le accredini fra i vari piloti dopo quello che era successo al Sicci. Quindi l'ho trovato estremamente divertente sentirlo subito dopo il despaio che aveva causato il calcio, quindi non era assolutamente vero che l'evento triste del Sitch avesse cambiato anche il qui paddock, posso... e le atmosfere. Massimiliano, anche qui posso fare il postino, se vuole lo chiedo a Guido Meda quando tornerà a trovarci. Io continuo a pensare che molte volte siamo... prigionieri dell'emotività e di certi momenti, e magari qualche volta diciamo delle cose che poi non sono vere, come chi dice dopo quello che è successo a Parigi allo stadio, in uno stadio non entrerò mai più mentre prima ci andavo tutte le domeniche. È chiaro che in questi momenti siamo intrappolati legittimamente, comprensibilmente, dall'emotività. Leo Turrini, buongiorno. Come buongiorno, stai? Maestro Genta. Come stiamo? Ma non c'è male, stavo sentendo quello che dicevi adesso. Sai, io non vado mai alle partite, domani sera vado a vedere la Nazionale Bologna. Sì. Proprio come reazione a quello che abbiamo vissuto e sperimentato negli ultimi giorni via Parigi. Sì, sì, sì, ma Leo, abbiamo parlato a lungo di questo tema sia ieri che oggi, come è normale che sia, forse un po' è evidente che queste sono vicende che cambiano la vita di tutti. No, l'unica cosa che non sopporto è la demagogia di chi dice bisognava fermare tutto a qualunque latitudine, non dovevano nemmeno correre in Brasile. Certo, Todd poteva risparmiarsi certe uscite. No, guarda, io credo adesso, al di là delle cadute di stile che ci possono essere in talune manifestazioni o sterlezioni da parte di singoli, però io ho sempre creduto che la reazione migliore di fronte a fatti così spaventosi che cambiano la vita di ognuno di noi, perché è inutile far finta di niente quando tu capisci che sei in un mondo che ti possono sparare addosso perché vai a un concerto, un ristorante, un bar, ti rendi conto che è una trasformazione antropologica assoluta, ma la reazione migliore, forse l'unica, e cercare di continuare a vivere come prima. Ma chiaro. Se no hanno vinto loro, è tutto lì. Certo, e anche mettere in discussione lo svolgimento degli europei in Francia non ha molto senso, anche perché sono cose che passano talmente alte sopra di noi che nessuno in questo momento può ragionevolmente dire ci sono ragioni di sicurezza tali per cui è opportuno non farli. Dai, o è opportuno, Carlo, farli? È ovvio che nell'immediatezza di fatti così orribili c'è un impatto emotivo enorme, però a maggior ragione, proprio perché abbiamo visto quello che è successo, bisogna pensare e sperare che in Francia, visto che sono stati assegnati alla Francia, siano in grado di organizzare una grande festa popolare, come debbono essere i campionati europei di calcio, in tutta sicurezza per chiunque. È chiaro. Perché se passa l'idea che non ce la possiamo fare, allora, come ti dicevo prima, davvero è finita, sì, smettiamo di vivere, rinunciamo alle nostre abitudini, alle nostre passioni, è quello che vogliono questi mostri, e penso sia quello che esattamente non vogliamo noi, capito? La nostra anima finirebbe in prigione, caro Leo Turrini, in quel caso. Maestro, senti, posso rubarti un pensiero invece su quanto diceva il nostro ascoltatore prima, cioè su Schwarzer, il doping russo, eccetera, quello lui ha detto, ma io per battere i sovietici devo farmi le punture. Io non credo sia una giustificazione. Tante volte abbiamo, vabbè, tu maestro del ciclismo me lo insegni, tante volte abbiamo aspettato qualcuno che pizzicato facesse una pubblica accusa. In questi giorni si apre l'ennesimo capitolo della storia di Pantani, indagini più estese, eccetera. Però io non penso che possa essere granché rivalutato, possa essere granché rivalutata la figura di Schwarzer e l'errore di Schwarzer. Guarda Carlo, secondo me bisogna tenere distinti due piani, mi spiego. Quello che Schwarzer ha fatto, cioè mi riferisco al ricorso al doping, eccetera, mentendo a tutti, rimane inqualificabile ed è giusto che sia stato sanzionato. È vero, perché questo è vero, che quando lo beccarono, purtroppo solo quando lo beccarono, visto che tu dici bisognerebbe trovare qualcuno capace di rompere l'omertà, nel 2012 Alex disse: bene, ti ricordi le lacrime e tutto, io ho fatto l'errore più grave della mia vita, però nel 2009, quando ho smesso di vincere dopo Pechino, venivano da me i marciatori russi che mi battevano e mi dicevano: ah, ma se vuoi vieni con noi, ti spieghiamo come facciamo a batterti. Tra l'altro, tutta questa mega indagine della WADA che ha portato a questo sconquasso internazionale è partita nessuno quasi l'ha evidenziato, ma è partita dalla deposizione di Schwarzer al tribunale di Bolzano, il processo penale, perché poi gli atti sono stati trasmessi per conoscenza all'Agenzia Mondiale Antidoping e da lì si sono svegliati, perché poi cioè la vera questione è che né io né te, e credo nemmeno i tuoi milioni di ascoltatori, abbiamo mai creduto che a livello di governo dello sport internazionale, in questo caso parliamo della Federatletica per dire, no? O dello stesso CIO, fossero tutti ignari, fossero tutti, diciamo così, vergini, inconsapevoli. Cioè. Infatti adesso cosa ti viene fuori? Che c'erano pezzi da 90 della Federatletica, forse dello stesso Comitato Olimpico, che prendevano bustarelle tangenti da federazioni, da manager di atleti per coprire i casi di sospetta positività, buttare via le provette, che è la stessa storia, a proposito di Armstrong, no? Certo. Che abbiamo scoperto una dozzina di anni dopo i fatti, quando ci hanno raccontato che Armstrong era un finanziatore della lotta al doping perché faceva donazioni alla Federciclismo Internazionale, la quale in cambio buttava via le provette dell'americano. Sì. Allora, hai capito? Non è che non c'è chi non rompe l'omertà, è che poi quando queste cose si vengono a sapere, ma sì, insomma, ci si fa una scrollata di spalle, si cambia un dirigente e tutto, hanno promesso di fare i bravi. Beh, no, insomma, qui, come dicevano un tempo quelli che hanno studiato come te, Pardo, il pesce puzza dalla testa. Allora, qui noi dobbiamo, se parliamo di doping, renderci conto che c'è, o voglio guardare essere ottimista, c'è stato un coinvolgimento al massimo livello in chi doveva combattere il doping. Questo è chiaro, non è nemmeno la prima volta, perché siamo passati dagli Stati Uniti alla Spagna, adesso alla Russia, e quindi stiamo facendo il giro del mondo. Esattamente. No? Io poi non so quale soluzione si possa trovare di fronte a un virus che evidentemente ha contaminato tutto. Mi è piaciuta una proposta che ha fatto Magnini, il nuotatore, il fidanzato da Pellegrini, che l'ho sentito in televisione ieri, che ha detto: ma uno dei problemi è che i controlli vengono fatti su base nazionale, no? A parte i grandi eventi, dico i controlli permanenti, periodici, per cui gli italiani controllano gli italiani, i russi controllano i russi, fanno i keniani controllano i keniani, hai capito? E lui diceva: forse potrebbe essere una soluzione se a controllare gli italiani vengono gli australiani, a controllare i russi ci vanno, non dico gli americani perché poi Putin non li fa entrare, ma ci andiamo noi italiani, hai capito? A controllare i giamaicani ci vanno magari gli svizzeri, ecco, dico i controlli quelli permanenti, quelli a sorpresa, quelli che si fanno tutti i giorni. Ecco, quella potrebbe anche essere forse una via d'uscita. Detto questo, a proposito di via, notizie sul traffico, il solito rallentamento sulla Pero Corbano, perché ancora una volta Marquez non si decide a sorpassare, quindi si è creata una coda di circa 20 chilometri, perché si è trovato davanti una vettura che sembra provenire da Tavuglia e non la sorpassa. Rimane non lì. La sorpassa, rimane lì a 60 all'ora, e quindi fatevene una ragione, facciamocene una ragione, il mondiale la penso sulla Formula 1, cosa volete che vi dica? Rosberg si è svegliato troppo tardi. Troppo il tardi. Addormentato nel bosco, il bacio della Mercedes è arrivato in ritardo, altrimenti avremmo forse vissuto una volta più appassionata. Non mi ha sorpreso neanche un po'. Leo Turrini, ma ne parliamo un'altra volta. Io ti ringrazio tanto. Maestro, vai in sapere Batti Pardo nel duello video, sì, mi raccomando. Certamente. Lo spogliatoio contro Tiki Taka ne sta parlando tutta Italia. Siete un po' come Gasman e Tino Buazzelli ai tempi del grande però teatro. posso fare io Gasman. Iago, eh? Posso fare Gasman. Sì, beh, Paolo c'ha anche il fisico per fare Buazzelli. Ciao Leo, grazie. Baci come a Giorgio De Luca, il nostro autore, Filippo Aureggi in regia, Giovanni Macchioni in redazione. Ci sentiamo domani alle 2. Ciao. Arrivederci su questi prossimi schermi. Ciao, ciao amore mio. In diretta ti ho detto amore mio.